Vola con Air Berlin da tutta Italia verso i più bei mercatini di Natale in Germania, Austria e Svizzera. 100.000 posti in più da 39 euro. Tariffa di sola andata tutto incluso. Solo fino al 15 novembre. La scelta giusta per un magico Natale. Prenota subito su airberlin.com. È a Berlin. Io e Alain. Pronto? Pronto, buongiorno. Ero interessato a quel posto di lavoro. Lavoro? Lavoro? Stanco di cercare lavoro ovunque? www.miojob.it. Annunci, news e strumenti per chi cerca e offre lavoro. www.miojob.it. Il sito per trovare lavoro. Risparmio del 50%. Questo significa raddoppiare. È come usare il doppio delle parole in questo spot radio. Bene, fantastico. Ora sì che posso dire molto più di quanto pensassi. Ad esempio, con le cartucce originali di inchiostro HP Excel, i vostri soldi saranno ben spesi perché risparmierete fino al 50% rispetto alle cartucce HP Standard, dandovi una migliore qualità di stampa, qualità e quantità in un solo prodotto affidabile. Le cartucce originali HP Excel non finiscono mai e poi mai e soddisfano sempre le vostre esigenze di stampa, ma forse parlare così non è efficace per uno spot. Quello che volevo dirvi è che con le cartucce di inchiostro HP Excel risparmierete fino al 50%. Radio Capital. Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa. Andiamo a Salerno. Francesco, buongiorno. Salve Giancarlo, buongiorno. Come stai? Benissimo, felicissimo innanzitutto per questa situazione che mi hai creato oggi pomeriggio. Beh, l'hai creata tu, con un messaggio per ascoltare appunto il brano che ti passa per la testa. So che tu fai anche cartongessi? Sì, pitturazione e cartongessi. Noi siamo una ditta di Salerno, ne siamo. Posso fare pubblicità naturalmente? Ma sì, già che sei lì. Wolf Doctors, i dottori del muro. Bella lì. Legato anche ai Pink Floyd, naturalmente. Giustamente. Allora. Senti, caro Francesco, allora, qual è il brano che ti passa per la testa? È un grande pezzo, ci voglio ascoltare. Anzi, a tutti gli amici di Radio Capital. Stevie Wonder con Superstition. Uno dei grandi pezzi di Stevie Wonder. L'ascoltiamo subito e ti. Dedico, posso fare soltanto una dedica? Un minuto. La dedico ai miei colleghi e alle due Carle, la figlia del mio socio e la mia donna. Okay. Tanti auguri. C'è l'oro con Massimo. Auguri, auguri, auguri. Ciao Francesco, un abbraccio, ciao. Ciao, saluti a Salerno, ciao.